Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. All'Aquila i funerali per le vittime del terremoto, 205 le bare, ma il bilancio dei morti è salito a 289. Oggi in tutto il mondo le celebrazioni del Venerdì Santo, questa sera alle 21, la Via Crucis guidata da Benedetto XVI. Novità per la scuola in Italia, riaprono le graduatorie per i docenti precari. Nella maggioranza discussione aperta sull'accorpamento del referendum con le europee, Berlusconi favorevole ma la Lega frena. Oggi anche il calcio si ferma, rinviata la giornata di B, domani gioca regolarmente la Serie A. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Il terremoto che ha colpito l'Aquila e l'Abruzzo è un'immane tragedia, ma bisogna continuare a sperare senza cedere allo sconforto. È il messaggio di Papa Benedetto XVI letto durante i funerali solenni in corso che sono conclusi poco fa nel capoluogo abruzzese dal segretario personale del Papa. Sono 205 le bare che erano allineate questa mattina davanti all'altare dove sono stati celebrati i funerali. 5 piccole bare bianche sono state sistemate sopra i feretri delle mamme, le bare allineate in 50 file, su ogni fila ci sono 4 bare. La vittima più giovane aveva compiuto 5 mesi il 5 aprile scorso, la madre aveva 35 anni. Le bare sono state allineate su un tappeto rosso davanti ai familiari, circa 1600. Di questo ci occuperemo anche tra poco, soprattutto tra poco nel nostro lungo speciale dedicato appunto al terremoto. Questo pomeriggio in San Pietro il Papa celebrerà la liturgia della Passione, questa sera alle 21 in diretta TV dal Colosseo. Benedetto XVI guiderà invece la Via Crucis. In questo Venerdì Santo, segnato dal lutto nazionale per la tragedia abruzzese, sarà la riflessione del vescovo indiano Thomas Menam Parampil sulle moderne sofferenze dell'uomo il cuore della liturgia della seconda tappa del Triduo Pasquale. Con le celebrazioni in Vaticano della Settimana Santa continua il cammino verso la Pasqua della Chiesa Cattolica. Ieri, durante la messa crismale che ha iniziato la liturgia del Giovedì Santo, il pontefice Benedetto XVI ha insistito soprattutto sul legame con la verità e ha criticato il dileggio che il filosofo tedesco Nietzsche fa dell'umiltà. Orbene, esistono caricature di un'umiltà sbagliata, di una sottomissione sbagliata che non vogliamo imitare, ma esiste anche la superbia distruttiva e la presunzione che disgregano ogni comunità e finiscono nella violenza. Oggi la riflessione del presule salesiano Menam Parampil si soffermerà invece sulla sofferenza, sulla violazione dei diritti umani, sull'oppressione dei poveri, sulla limitazione del ruolo delle donne, sulla corruzione, sulle violenze ai minori. Ma di fronte alla domanda chi sono i colpevoli, inviterà a non puntare solo il dito verso gli altri. Paolo Piacenza, GR24, il Sole 24 Ore. E le celebrazioni del Venerdì Santo coincidono a Livorno con il 18° anniversario della tragedia del Moby Prince, il traghetto sul quale morirono 140 persone dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo avvenuta la sera del 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno. La magistratura livornese da oltre un anno ha riaperto un'indagine sulla tragedia ascoltando centinaia di testimoni e cercando di dare una spiegazione ai tanti dubbi ancora esistenti. Borse chiuse oggi per le festività pasquali, chiusura anche per la maggior parte dei mercati asiatici, con l'eccezione di Tokyo che ha chiuso oggi con un rialzo dello 0,54%. La chiusura positiva conferma il trend di tutti i mercati dall'Europa agli Stati Uniti che ieri hanno chiuso con il segno più. Rimaniamo in Giappone dove il primo ministro giapponese Taro Aso ha confermato oggi il nuovo piano di spesa supplementare per il rilancio dell'economia nazionale, un piano da 15.400 miliardi di yen, 115 miliardi di euro. L'economia giapponese vive attualmente la sua recessione peggiore dalla seconda guerra mondiale, colpita soprattutto dal crollo della domanda estera. Ed ora la cronaca ci porta in Grecia. Un ragazzo dell'Abkhazia di 19 anni ha sparato su un suo coetaneo con una pistola di piccolo calibro, ferendolo al torace in una scuola nel centro di Atene. Lo studente è poi uscito in strada e ha ferito in modo leggero due passanti e successivamente si è tolto la vita. Il grave episodio è avvenuto in un momento di relativa calma ad Atene, la capitale greca, dopo i gravi incidenti dello scorso dicembre seguiti alla morte dello studente Alexis, colpito a morte accidentalmente dalla polizia. Il primo ministro Kostas Karamanlis sta cercando di sopravvivere con un solo deputato di maggioranza. Per di più oggi l'ex ministro per l'Egeo, Pavlidis, è sotto accusa per corruzione da una speciale commissione parlamentare. Se l'ex ministro dovesse essere giudicato colpevole, Karamanlis perderebbe la risicata maggioranza, aprendo così la via a elezioni anticipate. Vittorio Darold, GR24, Il Sole 24 Ore, Atene. E a proposito di elezioni, è arrivata da poco la conferma della vittoria alle elezioni algerine del presidente uscente Bouteflika, che si è aggiudicato il 90,24% dei voti. Di fronte ad una nuova impennata dei blitz dei pirati somali, gli Stati Uniti invieranno nel Corno d'Africa nuove forze entro le prossime 24 ore. Ieri i pirati hanno cercato di dirottare una nave americana, l'equipaggio è riuscito a sventare l'azione, ma i pirati sono scappati prendendo in ostaggio il capitano. Ed ora altre notizie dall'Italia sul lago d'Iseo. Andiamo sul lago d'Iseo, dove ieri c'è stato un grave incidente, 3 erano i dispersi, nelle ultime ore sono stati recuperati 2 corpi. È stato recuperato alle prime ore della giornata il corpo di Lino Foiadelli, il proprietario del cantiere nautico di Paratico, dal quale ieri pomeriggio era uscito il Cigarette, un potente offshore con 2 motori da 500 cavalli. Le acque del lago di Iseo l'hanno restituito assieme a quello di uno dei suoi clienti, ospiti sulla barca in fase di prova. Ancora va nelle ricerche del terzo uomo, mentre l'unico sopravvissuto si trova ricoverato all'ospedale di Iseo, sotto shock. Scolpite nella sua mente le immagini e le grida di ieri pomeriggio, quando l'offshore all'improvviso ha iniziato a girare su se stesso. Un gioco, hanno pensato alcuni passanti sul lungolago. Una tragedia in realtà. Maurizio Finazzi, bergamasco, ha cercato di domare il timone, senza riuscirci, mentre tutti gli altri, compreso Foiadelli, abile pilota conosciuto a livello europeo, venivano sbalzati fuori. Inutili per loro i soccorsi arrivati tempestivamente grazie a pescatori e persone sul lungolago clusanese. Solo dopo ore di ricerche da parte dei sommozzatori, dei vigili del fuoco e dei sub della protezione civile, i corpi di Foiadelli e di un suo cliente bergamasco sono stati individuati e recuperati. Vanno al momento le ricerche della terza persona, che continueranno anche oggi. Paola Buizza, GR24, Il Sole 24 Ore, Brescia. Ed ora parliamo delle novità che riguardano il mondo della scuola. Anticipando i tempi annunciati nei giorni scorsi ai sindacati, il ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini ha firmato ieri il provvedimento che riapre le graduatorie per il collocamento dei docenti precari. Una svolta che può interessare circa 300.000 docenti precari. Per presentare la domanda, per conservare o conquistare un posto nelle graduatorie a esaurimento, gli interessati hanno tempo da oggi fino all'11 maggio. Il provvedimento è infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. Fare domanda è obbligatorio, pena la cancellazione definitiva dagli elenchi. Novità del provvedimento è che gli aspiranti docenti, oltre a presentare domanda per l'aggiornamento dei punteggi nella provincia in cui sono già inseriti, potranno anche presentare la domanda in altre 3 province. In questo caso però saranno inseriti in coda alla graduatoria. Il testo però non consente trasferimenti da una provincia all'altra. Anna Marino, GR24, Il Sole 24 Ore. La politica. Nella maggioranza si discute del nodo referendum. Per Berlusconi la proposta di abbinare la consultazione con le elezioni europee e amministrative è degna di un approfondimento. Oggi arriva anche il parere favorevole del sindaco di Roma, Alemanno. La Lega è però contraria ad un referendum che, se dovesse passare, avrebbe come conseguenza quella di spingere all'aggregazione, visto che il premio di maggioranza andrebbe alla lista e non più alla coalizione che ottiene più consensi. Io non vado per clinica niente perché non sono doente, non sto doente. La voce che sentite quella di Adriano, che dice: non sono malato, ho bisogno solo di stare tranquillo, non mi serve una clinica, la mia clinica è la mia famiglia, il mio paese. A parlare è, come abbiamo detto, il centravanti dell'Inter da Rio de Janeiro. Il campione brasiliano ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato per qualche mese. Adriano ha smentito le voci di una sua malattia, di alcolismo e di frequentare cattive compagnie. A Milano, ha spiegato, c'è troppa pressione. Poi ha aggiunto che, anche se Moratti è stato come un padre, preferisce rinunciare ai soldi e restare in Brasile. Intanto oggi il calcio si ferma, la 35esima giornata di Serie B era in programma questa sera, ma è stata rinviata in segno di rispetto per la giornata di lutto nazionale per le vittime del terremoto in Abruzzo. Domani pomeriggio regolare in campo invece la Serie A. Noi parliamo della partita di ieri sera dell'Udinese, l'ultima delle italiane in Coppa, che ha perso 3-1 a Brema nell'andata dei quarti di UEFA, qualificazione dei friulani a questo punto molto difficile. Ciao Udinese, stavamo per dire. Poi una girata da cobra di Quagliarella a 3 minuti dal 90esimo ci permette di rimandare i coccodrilli, che sono e probabilmente saranno quelli del calcio italiano, non solo dei friulani. A Brema finisce 3-1, risultato obiettivamente difficile da risvoltare a Udine, ma ci si può anche tentare perché il Werder è una squadra che molto dà e altrettanto prende, tanto che un Udinese un po' più precisa, furba e sveglia poteva tornare con uno scarto meno penalizzante. E brucia da morire il terzo gol segnato da Ugo Almeida un pugno di secondi dopo il raddoppio. Sul resto poco da dire, perché davanti ai grandi giocatori bisogna togliersi il cappello. A proposito, se qualcuno cerca un erede per Del Piero, si vada a vedere il secondo dei 2 gol di Diego, con palla a giro sotto l'incrocio dopo aver saltato secco D'Agostino. Chi vuole intendere intenda, specie se pensa e sogna in bianco e nero. Carlo Genta, GR24, Il Sole 24 Ore. Primo weekend del Moto Mondiale oggi in Qatar. Nella serata italiana le prime prove libere con la Moto GP in pista alle 22.15. La corsa della classe Regina domenica alle ore 22. Era questa l'ultima notizia, adesso vi lasciamo con lo speciale dedicato al terremoto. Le ultime notizie dall'Abruzzo, sono le 13:11. Il GR torna alle 14:00.